coraggio di sconfiggere l'armia. Cosa sia stato non lo so, magari un giorno capirò e torneremo ancora a volare. La rete tesa, ma se vuoi puoi superare anche i colori dell'arcobaleno e ci stupiremo. Oltre l'azzurro voleremo, tra le stelle un cuore puro, dove neanche le aquile sanno volare. E per mano prenderemo quell'amore, quel sereno, tra le dita una farfalla tremolante, fatta di mille colori che schiariscono la notte, dove i nostri occhi fanno della vita. Siamo noi. C'era un tempo, forse troppo tempo fa, chiamava calore e dignità. Adesso è solo tentazione, la bellezza ostentazione, la purezza è data in pasto a un titolone. Non godi più, ma fai vedere che hai già fatto tre carriere e non ti basta mai. Che vuoi? E d'altro canto puoi vedere che basta un tuffo in mezzo al mare per ricominciare a vivere, a sperare che sia soltanto un brutto giorno fatto di andata e poi ritorno, e quando torni potresti anche migliorare. Siamo in tanti, ognuno è diverso, con lo sguardo di chi si sente un po' perso. Non mollare, amico mio, io sono qui e non ti tradirò. Siamo noi.